il sole qui è una magnifica visione, mentre il mondo malato là sotto è una camera di combustione. C'è un non so che di paradiso, e Marte è un poco più vicino. Sei ricco, fai un bel sorriso, vagheggia il tuo prossimo villino. Chi ce la farà e chi non ce la farà, canta che ti passa, nel caso poi si vedrà. Chi ce la farà e chi non ce la farà, canta che ti passa, nel caso poi. Mi piace questo viaggio che va dall'infinito, il mondo è un miraggio ma laggiù il caldo è percepito, l'acqua si esaurisce, il ghiaccio si fa mare, o è prato che fiorisce per